24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7 e 20 minuti, buongiorno cari ascoltatori, è un buongiorno con questa voce, eh? Oggi il sondaggio lo facciamo su questo: arriverò con la voce alla fine della trasmissione? Carmelo Lauricella dall'altra parte del vetro dice no. Non ce la farai assolutamente. Allora eccoci qua, buongiorno, in diretta fino alle 9 come di consueto. Avremo ospite alle 8:20, ve lo preannuncio, Milena Gabanelli, che riparte con il suo report da domenica. E poi parleremo ancora sempre di attualità politica, ancora gli scontri, le manifestazioni. Anche avremo un esponente della Lega per parlarci di questa vicenda, allora, di questi benedetti ministeri o dicasteri o ministeri decentrati al nord. In ogni caso andiamo a scoprire che cosa ci propongono intanto i giornali in edicola. È giovedì 20 ottobre, intanto uno sguardo alle aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore, vertice d'emergenza per l'euro, domanda debole all'asta tedesca dei Bund, i rendimenti superano il 2%. Molti quotidiani si concentrano sulla vicenda di Banca Italia. Oggi dovrebbe esserci l'indicazione da parte del Premier Berlusconi del nome. Tensione su Bini Smaghi, così titola il Corriere della Sera. Per Repubblica, la battaglia su Banca Italia. Per La Stampa, Banca Italia, oggi il governatore, il Messaggero, duello finale su Banca Italia. Il Giornale invece sceglie di fare questa campagna di denuncia che fa da qualche giorno dopo gli scontri di Roma, di mettere in primo piano foto che ritraggono manifestanti. In questo caso è il titolo di una persona, la foto di una persona che butta dell'acqua sul blindato dei carabinieri in fiamme. Il titolo ironico è "Toh, un altro pompiere. Continua la caccia ai black bloc, ecco il teppista che getta a benzina sui blindati". Secondo il Giornale questa foto non è acqua ma benzina, effettivamente più plausibile. Il Fatto Quotidiano: chiedi 5 cose, Berlusconi al mercato dei deputati, un altro onorevole, muro di Forza di Future Libertà, denuncia le offerte avute per cambiare schieramento. Sorpresa, l'Italia va meglio, questo titola Libero, mentre i due giornali più orientati a sinistra si concentrano sulle manifestazioni in arrivo. Libera piazza, così titola l'Unità, mentre il Manifesto mette una foto di Piazza del Popolo a Roma vuota, col titolo Riempiamola, riguarda la manifestazione della FIOM, che non sfilerà no al corteo per i divieti di Alemanno, ma riempiamo la piazza, ci ritroveremo lì. Allora, intanto io devo fare un appendice rispetto a quella che era la notizia apparsa ieri e che io avevo detto, vi ricordate, no, non sarà vero, non è vera questa notizia che dava Italia Oggi in prima pagina e in apertura, dicendo che i ministri e i sottosegretari saranno esentati dai tagli previsti nella manovra per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Quei tagli credo del 5% se superi il 90.000 euro, del 10%, adesso vado così a memoria, se superi 150.000 euro di reddito. Perché sono esentati? Perché in realtà ministri e sottosegretari non sono considerati, hanno un rapporto politico e quindi non sono considerati dipendenti pubblici alla stregua di tutti i dipendenti pubblici. Che ne dica Beppe Grillo, verrebbe da fare una battuta. E invece la notizia, si sono attese smentite per 24 ore, cari ascoltatori, è tragicamente vera. E oggi tutti i giornali riprendono quello che ieri ha scritto Italia Oggi e ci fanno delle pagine. Il Fatto Quotidiano: non pagano mai, così titola, pagina 7, niente contributo di solidarietà per i ministri e sottosegretari, riavranno pure i soldi trattenuti. Con il segretario della CGIL Funzione Pubblica Gentile che dice sono cose da pazzi, la casta si salva, mentre gli statali pagano più di tutti il blocco degli stipendi. Ma così anche Libero, i ministri si restituiscono il contributo di solidarietà. E il Secolo XIX invece mette in prima pagina un intervento di Carlo Stagnaro, molto duro, dell'Istituto Bruno Leoni. C'è chi sputi e monetine se li prende, chi se li cerca, chi li subisce e chi li merita. La nostra classe politica si è guadagnata dal primo all'ultimo insulto il sentimento antipolitico che cova nel paese. Ecco l'ennesima prova, un'oscura circolare del Ministero dell'Economia rivelata ieri da Italia Oggi, che dice in pratica i tagli agli stipendi dei dipendenti pubblici non si applicano a ministri e sottosegretari. Quello che fa rabbia, scrive Stagnaro, non è di per sé il reddito dei politici, anche se sovradimensionato rispetto ai colleghi europei. Ciò che dà fastidio, perché suona come una spudorata discriminazione, è la disparità di trattamento. Perché un comune mortale con lo stesso reddito di un deputato deve avere una pensione più bassa? Perché un qualunque dirigente pubblico deve rinunciare a una fetta della busta paga e chi occupa uno scranno ministeriale? No? Domande che ovviamente sono senza risposta. La seconda segnalazione che vi voglio fare è dal Corriere della Sera, ne parla Alessandra Mangerotti a pagina 31, è un'iniziativa del sindaco di Settimo Torinese in provincia di Torino. Il titolo è questo: il paese che obbliga i disoccupati a lavorare in cambio di solidarietà. Che cosa ha fatto il sindaco che è del Partito Democratico? Ha importato un sistema di welfare tedesco, l'ha riadattato all'Italia e praticamente avviene così. Per chi chiede l'assegno di solidarietà, che sono circa 300 euro al mese per un massimo di 6 mesi, se però si dà la disponibilità, mentre si riceve questo assegno di solidarietà, a lavorare, il comune ti dà un assegno di solidarietà addirittura doppio. Ma se uno non dà la disponibilità a lavorare, nel caso di si trovi un lavoro, l'assegno di solidarietà viene tolto del tutto, salvo casi particolari individuati dai servizi sociali. Eccolo qui, doppio assegno a chi in solidarietà decide per esempio di pulire i parchi. Se invece uno dice no, voglio solo l'assegno di solidarietà ma non sono disponibile a lavorare, che ne so, pulire i parchi, fare azioni importanti di lavoro per la comunità, allora a te l'assegno di solidarietà non solo non lo diamo, ma non lo diamo proprio del tutto, 0 euro. Eccolo qui, il paese che obbliga i disoccupati a lavorare in cambio di solidarietà. Beh, interessante sicuramente. L'iniziativa del sindaco di Settimo Torinese è un nuovo modo di fare welfare ai disoccupati disponibili a lavorare, viene raddoppiato l'assegno. Chi dice no, perde tutto. Sono le 7:35 minuti, buongiorno, eccoci cari ascoltatori. Allora, la lettura dei giornali, ci dobbiamo concentrare certamente su quella che è la vicenda Banca Italia. Su molti quotidiani, questo è il titolo di apertura, oggi Berlusconi ha promesso, farò il nome. Scioglierò, diciamo, i dubbi sul nome, sapete che sono vari candidati. Allora, per chi spinge ora Berlusconi pare per Bini Smaghi. Il premier spinge per Bini Smaghi, questo è il titolo per esempio a pagina 3 del Sole 24 Ore. Ieri tra l'altro ha incontrato anche il presidente della Repubblica Napolitano, è il nome meno diviso, avrebbe detto Berlusconi, ma anche se non si nasconde, fa sapere Dino Pesole a pagina 2 del Sole, i dubbi del Quirinale. Bisogna infatti salvaguardare la continuità, invece Bini Smaghi in questo momento è al board della Banca Centrale Europea e non si nasconde, scrive Pesole, anche una certa irritazione da parte del Colle. Perché? Qual è il punto fondamentale? Allora, pare che Lorenzo Bini Smaghi sia il candidato preferito da Nicolas Sarkozy. Ora voi dite, che cosa c'entra Nicolas Sarkozy con la nomina del governatore di Banca Italia? Beh, c'entra perché la promessa da parte di Berlusconi è quella di far liberare il posto che Bini Smaghi occupa appunto nel Consiglio della Banca Centrale Europea entro il 1 novembre, perché Sarkozy ci vorrebbe mettere un bel francese. E quindi, insomma, sono questioni di potere, di nomine. E allora Berlusconi pare che abbia promesso a Sarkozy: vedrai, metterò Bini Smaghi alla Banca Italia, così si libera questo posto alla Banca Centrale Europea per il quale si può mettere un francese. E infatti, paradossalmente, il Corriere della Sera fa notare che le pressioni per avere Bini Smaghi vengono soprattutto dalla Francia. A pagina 2 il titolo, con le riserve del Colle, ci pensi su e bene i dubbi del Colle sull'idea del premier, ma il fatto è proprio questo, l'idea che Sarkozy prema. E infatti Ferruccio De Bortoli, il direttore del Corriere della Sera, nel titolo del suo editoriale "Come pasticcio un capolavoro", scrive: una vicenda surreale, la nomina del nuovo governatore di Banca Italia non solo non è stata sottratta a un vergognoso gioco di veti incrociati della politica italiana, ma rischia di concludersi con l'indicazione di un candidato agevolata da un ultimatum del presidente francese. Questo senza nulla togliere alle qualità indiscusse di Lorenzo Bini Smaghi. È lecito però chiedersi se senza il diktat di un irascibile Sarkozy l'esito sarebbe lo stesso. E poi, scrive più avanti De Bortoli, se il premier non si fosse baloccato tra spinte diverse, Tremonti che voleva a tutti i costi il suo direttore generale Grilli, le sollecitazioni per una scelta interna Saccomanni, non avremmo assistito a una sguaiata lite su un ruolo così delicato in cui tutti i politici si sono sentiti autorizzati a dire la loro, mentre a Bruxelles, dove si decidevano i destini dell'euro, eravamo semplicemente assenti. Bossi è arrivato addirittura a indicare Grilli solo perché milanese. Allora, chissà se oggi ci sarà lo scioglimento di questa riserva sul nome. Sta di fatto che, come racconta in un retroscena Carlo Marroni in prima pagina del Sole 24 Ore e poi continua a pagina 2, la tentazione, poi questo nome dovrà essere sottoposto al voto del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, sono 13 persone, per lo più imprenditori, professori universitari. Ebbene, si sta profilando, secondo Marroni, la tentazione, nel caso fosse il voto da dare su Lorenzo Binismaghi, di votare contro, la tentazione del voto contrario. Così il Consiglio di Via Nazionale, la serena continuità della vita di Banca Italia in questo momento, scrive Carlo Marroni, è in mano a 13 signori che compongono il Consiglio Superiore, sono loro che lunedì prossimo dovranno probabilmente votare sul nome di Lorenzo Binismaghi come prossimo governatore. Ma il parere favorevole per la prima volta nella secolare storia della Banca Centrale non è affatto scontato. Già, perché il braccio di ferro in corso da giugno sulla successione a Mario Draghi ha creato un clima di tensione che ha messo in luce come le spinte ossessive della politica tra Berlusconi, Tremonti e Bossi abbiano messo a repentaglio uno dei pilastri della banca, l'indipendenza. E allora il Consiglio Superiore di Banca Italia può anche darsi che non voterà a favore. Sta di fatto che su questa nomina si esercitano molti retroscenisti dei quotidiani, anche per Francesco Bei è il gelo di Napolitano sul premier, serve un largo consenso per una nomina autorevole, mentre per La Stampa, con Amedeo La Mattina, pagina 3, Berlusconi è definito dilaniato dai dubbi e paralizzato dai veti, tanto che è stato udito Tremonti in una conversazione con un interlocutore telefonico sconosciuto a dire: guardate che non è assolutamente decisa e chiusa la partita per Banca Italia, tanto che secondo La Stampa in realtà Berlusconi potrebbe prendersi altre 24 ore per decidere. Secondo invece Il Secolo XIX, tra Saccomanni, Grilli, Lorenzo Binismaghi spunterebbe anche il profilo di un'altra possibile candidata, una donna, si tratta di Anna Maria Tarantola. Banca Italia, ultimatum Unione Europea, spunta la carta Tarantola. Questo secondo Il Secolo XIX a pagina 3, che raccoglie anche quello che sarebbe uno sfogo di Berlusconi, che avrebbe detto non so più come uscirne, perché la questione di cui si parlava anche nei giornali scorsi è che, come diceva Verderami ieri sul Corriere, ha promesso la stessa poltrona a troppe persone per tutelare, diciamo, interessi e fare gli interessi di diverse persone, no? Binismaghi per Sarkozy, Tremonti che vuole Grilli, la continuità sarebbe Saccomanni che è il direttore generale di Banca Italia, insomma non si sa come uscirne da queste secche. Intanto l'altro tema sul fronte economico sviluppato dai giornali è quello della questione del decreto sviluppo, un decreto sviluppo che fa sapere Tremonti che non cede, sarà solo a costo zero. Ora si profilano le ipotesi di quello che potrebbe contenere questo decreto sviluppo. Secondo tutti i giornali, una delle novità abbastanza certa è che ci sarà l'addio alle pagelle, saranno solo online, questo per sburocratizzare, per velocizzare, per risparmiare. Ma dovrebbero esserci anche il riscatto degli immobili degli enti previdenziali, il 25% dell'IVA ai concessionari delle infrastrutture, la proroga degli sgravi fino al 55% per la ristrutturazione e l'efficienza energetica, i mutui garantiti dallo Stato per le giovani coppie con contratti atipici. Questi dovrebbero essere alcuni dei punti fermi da mettere all'interno del decreto sviluppo. Ciò che invece spunta all'orizzonte, come ne scrive il Sole 24 Ore con Marco Mobili a pagina 7, è il concordato. Berlusconi apre al concordato, così titola il Sole, possibile riedizione della sanatoria che nel 94 portò 20.000 miliardi di lire. D'altronde, scrive Mobili, il governo è a caccia di risorse, allora tira fuori dai cassetti la proposta ingiallita da tempo, il concordato di massa. È stato lo stesso Berlusconi a confermare che si discute anche di un possibile concordato fiscale. L'obiettivo? Recuperare non meno di 5 miliardi. Nel lontano 94 la sanatoria fu un vero successo, allora il governo era governo Dini, garantì alle casse dello Stato circa 20.000 miliardi di vecchie lire. E allora ecco che sulla base di quell'esperienza due esponenti del PDL, Maurizio Leo e Guido Crosetto, hanno messo a punto un nuovo accertamento con un'adesione per gli anni pregressi. Si tratta, insomma, di una sanatoria, con tutto quello che ne consegue, il dibattito, anche delle opportunità etica di una sanatoria, ma si sa che in Italia, insomma, non sarebbe la prima e non sarà certamente neanche l'ultima qualora vi fosse. Intanto Libero, vabbè, fa un titolo che ormai è diventato un po' un refrain del retroscena della politica da mesi, no? Silvio accusa Tremonti, vuole mandarci a casa. Questo, secondo Salvatore Dama, è lo sfogo di Berlusconi riunito con alcuni ministri nei giorni scorsi a Palazzo Grazioli. I doppi vetri del salone trattengono a stento i decibel di una nuova lite. La discussione proprio sui contenuti del decreto sviluppo, Berlusconi e con Romani, con altri ministri, hanno fatto nottata per valutare soluzioni che siano di stimolo all'economia. E poi questo sfogo, Tremonti rema contro. Beh, certo, sta di fatto che anche ieri è stata una giornata di passione alla Camera. Ieri si è salvata per un voto la maggioranza, un solo voto su un emendamento di un provvedimento. 288 a 287, un emendamento dell'opposizione, opposizione che dice, beh, insomma, faremo di tutto per fare la guerra a ogni singola votazione. E poi invece c'è la vicenda di cui ci occuperemo anche alle 8.30, che torna, insomma, qualcuno l'ha definita una vicenda surreale, politicamente poco importante, politicamente dice, ma di che vi occupate questa storia dei ministeri a Monza? Sta di fatto che ieri c'è un pronunciamento del giudice che ha accolto, un giudice del lavoro che ha accolto il ricorso di alcuni sindacati di Palazzo Chigi e ha deciso che questi ministeri di Monza, o come li volete chiamati, sedi decentrate dei ministeri eccetera, quelli che sono stati aperti, inaugurati in pompa magna, c'era anche Tremonti, la Michela Brambilla, Calderoli, Bossi, vanno chiusi. Il giudice boccia i ministeri di Monza, così titola pagina 9 La Stampa. La Padania invece è più dura, le toghe di Roma contro i ministeri al nord, con Bossi che dice la questione e la sentenza non ci riguarda. Ma di questo ne parleremo alle 8.30, avremo il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Davide Boni. Sta di fatto che invece quello che continua è la questione di cui ci occuperemo anche degli scontri. Nella notte ci sono stati fermi e convalidati in arresto per alcune delle persone fermate dopo gli scontri di Roma. E su questo si guarda a quello che succederà domenica in Val di Susa per la TAV. E allora alle 7.48 minuti, come dire, scontri a Roma, nuovi interrogatori, così titola pagina 23 Il Sole 24 Ore. C'è da dire che tutti i giornali ovviamente sono un po' su questa notizia leggermente vecchi, nel senso che nella notte alle 2.30 di notte è stata data la notizia, si trova solo sulle agenzie o sui siti internet, che delle persone fermate, 9 di queste sono state confermate, il fermo tradotto in arresto in carcere, 2 invece agli arresti domiciliari, una sola persona è stata invece concessa la libertà. Ci sono le polemiche, intanto perché domenica c'è una nuova manifestazione in Val di Susa. Luca Casarini, intervistato da Repubblica, pagina 17, definito il movimentista, storico leader dei disobbedienti, dice basta ambiguità, i black bloc sono nostri nemici. È venuto il momento che il movimento recuperi il senso di realtà. Significa rinunciare a certa sociologia d'accatto, a certo radicalismi chic dei salotti di sinistra che non hanno perso il vizio di fare gli apprendisti stregoni con le vite degli altri. Significa chiudere per sempre con la maledizione degli anni 70 che sono finiti, finiti, scandisce in questa intervista rilasciata a Carlo Bonini. E anche finiti male. Tra l'altro però non risponde Luca Casarini alla domanda di cui l'hanno accusato, vale a dire di aver fatto una sorta di patto non imbracciare più la violenza o comunque la protesta dura in cambio di un posto in Parlamento nelle prossime tornate elettorali con Sel di Nichi Vendola. Dicono che lei abbia un seggio in Parlamento promesso da Sel. Dietro le mie parole, risponde Casarini, c'è la discussione di una comunità politica, il resto è pettegolezzo e diffamazione piccola piccola. Vabbè, insomma, una non risposta, staremo a vedere. Mentre vi segnalo la spettacolare intervista di A. Giuliano Ferrara sul Fatto Quotidiano. Il Fatto ieri riproponeva le foto degli anni 70, tra cui anche Giuliano Ferrara con un bastone, con un manico di piccone, a dire, vedete, anche coloro che oggi stroncano questi movimenti, negli anni 70 picchiarono. Malcolm Pagani lo intervista, pagina 4. Intanto Ferrara dice: beh, ma che foto sgranate avete trovato? Ne potevate trovare alcune di migliori, in qualcuna sono perfino nudo, dice Giuliano Ferrara. È vero, circolano le foto di Giuliano Ferrara nudo. A Valle Giulia brandisco un giornale, poi c'è una foto del 77, ci avevo un bastone, è vero, ma nei tempi in cui si brandivano le P38 avere un bastone in mano era di relativa gravità. Riguardo alla violenza, ne ho subito il fascino, certo. Jean Genet sosteneva che violenza e vita sono sinonimi. Da sempre, quando osservo un'inclinazione al male radicale, mi sforzo di capire. Dietro Erpelliccia c'è un mondo, dice Ferrara. Che poi dice: una volta, sì, nell'82, su un funzionarietto del comune di Torino, in occasione di un concerto coincidente con la strage di Sabra e Shatila, mi impedì lui di dedicare la serata alle vittime, voleva darmi una lezione sull'autonomia della cultura, lo mandai a fare in culo e gli diedi qualche meritato schiaffo. Ecco, Ferrara dice: ho usato la violenza anch'io qualche volta. E poi a Torino combattevo il terrorismo, ero un acceso ultra del diritto alla delazione, incontravo il mio referente della CIA in un bar di Trastevere. Da lì nasce la leggenda, comunque la conferma di Ferrara spione, no? Il Ferrara spia per la CIA. Non avevo grandi segreti da rivelare, lui mi dava qualche busta con dentro qualche dollaro, non lo facevo però per denaro, ma mi esaltava la perdita dell'innocenza. E vabbè, insomma, sapevo di fare peccato, ma non si può sempre vivere nella castità. Il titolo dell'intervista è "Era giusto menare", a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Voglio dare due notizie che provengono dall'estero, dalla Francia in particolare. La prima è che è nata, ce l'abbiamo fatta, Dalia Sarkozy è nata mentre il presidente Sarkozy era al vertice con la Merkel, ma poi in fretta e furia è andato da Carla Bruni. Ieri sera Carla Bruni ha dato alla luce una bambina. Poi su queste cose i francesi che non scherzano con la privacy, Sarkozy, c'era un fuoco di fila di domande sulla figlia e lui ha risposto: non interessano a nessuno in Francia le questioni di famiglia. Sono questioni private, proprio come in Italia. È Dalia, la piccola Sarkozy, vabbè, se volete saperlo, una Dalia all'Eliseo, così poeticamente titola la stampa pagina 25. È nata l'erede di Carla e Nicola. E invece, sempre dalla Francia, ragazzi, c'è gaffe peggiore di quella che ha fatto il ministro all'industria. Éric Besson, 54 anni, che ha pensato bene, finito ieri il Consiglio dei Ministri in Francia, di twittare, no? Mandare un messaggio su Twitter. Il messaggio era questo: appena torno a casa vado a letto, sono troppo stanco. Con te? E a chi l'ha mandato il ministro francese? A una donna, sicuramente. Già subito dicono: la moglie non ha Twitter, e quindi attenzione a chi ha mandato questo messaggio. Il problema è che il ministro ha mandato questo messaggio, sbagliando, a 13.500 persone. Gaffe su Twitter: il ministro invita 13.500 abbonati ad andare a letto con lui. Ovviamente, come potete immaginare, poi ha chiesto scusa, però una gran gaffe, no? Andiamo a letto a 13.500 persone. Ah, c'è il Milan che ha vinto, si sa, ve l'avevo detto, finalmente è arrivata il mercoledì la Champions League. Milan, Ibra e Boateng, che morsi, questo è il titolo della Gazzetta, contro i temibilissimi avversari del Bate Borisov, 2-0, il giornale radio. Mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti. Allora, domenica riparte Report su Rai 3, Voglio salutare per questo Milena Gabanelli, autrice di Report. Buongiorno Gabanelli e benvenuta. Ci sente? Eccoci qua. Non ci sente. Pronto? Benissimo. Ecco, certo. No, eravamo noi allora con un problema tecnico. Senta Gabanelli, intanto un ritorno tribolato. Anche quest'anno c'è stata la questione per mesi della tutela legale. Diamo la tutela legale, non diamo la tutela legale al Report. Poi alla fine è arrivata. Ma vuol dire che qualcuno non vorrebbe più vedere il Report, secondo lei? Beh, insomma, qualcuno usa un pretesto, che è questo qua. Poi il pretesto si supera, basta rimanere fermi come dei ramarri. Fermi come dei ramarri, sulle proprie posizioni. Alla fine chi la dura la vince, si può dire, no? Beh, non lo so, cioè io credo che l'azienda ha tutto il diritto di scegliere quali programmi mandare in onda, quali no, e di fare come meglio crede. Tuttavia, un programma come Report può andare in onda solo se... Ehi, la linea è caduta, ma adesso la recuperiamo, la recuperiamo subito. Come ha detto Milena Gabanelli, riparte domenica su Rai 3 con, tra l'altro credo la prima puntata è dedicata al federalismo, quindi anche momenti per la Lega che sono un po' difficili, immagino si parlerà anche di questo. Ma insomma, ci stava raccontando della questione della tutela legale a favore della RAI. Ecco, l'abbiamo recuperata. Eccoci qua, Milena. Oggi con i telefoni. Oggi è una giornata di temporali. Ah, ecco, perfetto. A Roma temporale. Ah, ecco, è quello. No, diceva, va qui pioggerellina per il momento a Milano. Qui viene giù forte. Ah, ecco, si diceva Report può andare in onda? Può andare in onda? Sì. Perché può andare, perché è un programma e non. Non è pensabile che possa essere trasmesso senza che l'azienda che lo trasmette ne condivida i rischi. Perché la politica però si interessa così tanto di alcune trasmissioni? Perché, cioè, perché la politica non riesce ad accettare il fatto che ci possa essere anche il diritto di fare un giornalismo d'inchiesta, il diritto di un giornalismo di critica? Ma non è solo la politica, è un po' la cultura del paese, vale anche per l'imprenditoria. Sono abituati ad essere più coccolati, ad essere più a che fare con un tipo di giornalismo un po' più servile, se vogliamo, e comunque la critica diretta o lo smascheramento è non per tutti i politici, perché qualcuno lo tollera, ma per alcuni è veramente qualcosa di più forte di loro. Se possono, si vendicano dopo. Qualcuno, per esempio, lei quest'estate ce l'aveva, ha detto, secondo me, una vendetta del ministro Tremonti, che tra l'altro è azionista come ministro del tesoro della RAI, ovviamente. Si è appianato. Vero. Allora, il ministro è azionista della RAI, perché appunto controlla il 99,9%. Però essere azionisti della RAI non vuol dire essere i proprietari, ok? Perché è il ministro di tutti gli italiani e la RAI è un servizio pubblico. Detto questo, che insomma io non sia particolarmente simpatica al ministro Tremonti, credo sia un fatto noto, e non l'ha mica neanche ordinato il medico, voglio dire, non è che devo per forza essere simpatica al ministro o che bisogna andare d'accordo con tutti. È chiaro che un suo fastidio si ripercuote su tutte le decisioni che devono essere prese attorno a questo programma. Quindi c'è stato, ma secondo lei addirittura anche una qualche pressione per cercare... Ma io, allora, i fatti sono questi, che il mio contratto è stato rinnovato ai primi di settembre e solo ad agosto si è sciolta la questione, il pretesto della tutela legale. Io, questi sono i fatti, il resto i se... come dire, sono tutti veri, forse sì, forse no, sono dei sé appunto. Ci ha vinto comunque il ramarro che è stato... Il ramarro è stato fermo. Senta, a parte lei non ci sarà però Santoro, non ci sarà la Dandini nella RAI. Ecco, perché lei ha detto in una recente intervista, io sarò sempre comunque con Santoro, e mi spiace che questo sia considerato dal punto di vista ideologico, però ci sono due partiti, sa, su Santoro, due schieramenti, chi lo considera un epurato e chi lo considera un martire della TV. Lei da che parte sta? Ma io penso che Santoro, conosco le pressioni che ha avuto perché conosco le mie, quindi immagino che le sue siano state ben più pesanti. Alla fine ha fatto una scelta, ha deciso di andarsene perché evidentemente l'aria era invivibile, e io quando dico che sarò sempre con Santoro, nel senso che Santoro è un prodotto televisivo enormemente utile, estremamente interessante, sia da un punto di vista proprio dell'innovazione del linguaggio, riesce sempre a portare qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante nella conduzione di un talk, e dal punto di vista insomma della vivacità della discussione politica. Quindi è un prodotto che io seguirò sempre ovunque lui vada. Però uno può dire via Santoro, via Dandini, via anche Saviano per esempio da Rai 3, vuol dire che la Rai non fa veramente gli interessi del servizio pubblico, oppure è un giudizio troppo tranchant? Non so, io non faccio il direttore generale, neanche il direttore di rete. Ribadisco, mi dispiace che se ne siano andati prodotti eccellenti che portavano risultato, mi auguro che vengano rimpiazzati con prodotti altrettanto buoni, perché altrimenti insomma, come dire, è vero che ognuno si massacra come vuole, però siccome è servizio pubblico ci massacriamo un po' tutti, questo mi dispiacerebbe, però dobbiamo aspettare e vedere con quali programmi vengano rimpiazzati. L'ultima cosa, dicendo, l'abbiamo detto che insomma la prima puntata sarà sul federalismo, quindi immagino anche un po' di Lega che se la passa in questo momento un po'. Allora, la puntata sul federalismo è nata così: tutte le volte che io leggo un giornale e vedo la parola nel titolo federalismo passo oltre, perché non riesco ad andare più in là della quarta riga. Mi sono messa d'impegno e ho detto al mio collega Bernardo Iovene, che è bravo a raccontare queste cose, dico: fammi capire il federalismo, perché se non l'ho capito io, che sono nel livello medio-basso, sicuramente tutti quelli come me, quindi la maggior parte degli italiani, non hanno capito bene o hanno capito male. Quindi cercheremo di capire che cosa significa concretamente questo federalismo. Poi. Sì, perché spiegare la confusione è una roba terribile. Ma ci riusciremo. No. Intanto in bocca al lupo ovviamente per la nuova edizione di Report. Grazie per essere stata con noi. Grazie, Milena, a voi, Gabanelli. Milena Gabanelli, autrice di Report, dunque su Rai 3. Parte, riparte domenica. Noi, che dire, ci fermiamo un attimo per la pubblicità del meteo e poi avremo, intanto, a proposito di federalismo, parleremo di questi ministeri del nord, allora Monza, e poi che tornano alla ribalta, e poi anche ancora della situazione scontri, vediamo, perché domenica c'è la manifestazione della TAV, no TAV, e dunque anche lì si teme qualcosa. Allora, alle 8:37 minuti, voglio salutare il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Davide Boni, della Lega. Buongiorno Boni e ben ritrovato. Buongiorno. Senta, buongiorno a tutti. Intanto c'è questa cosa dei ministeri, che però non si possono chiamare ministeri, non si capisce bene, sedi decentrate, c'è un giudice che le vuole chiudere, anzi ha detto vanno chiusi, per la verità. Ma i giudici ne dicono tante. Ho capito, sa, in un paese in cui c'era la magistratura, decide delle cose, hanno accolto un ricorso dei sindacati di Palazzo Chigi, hanno detto vanno chiusi. Perché voi dite non ce ne frega niente in sostanza? Ma perché alla fine io credo che la volontà politica sorpassi anche questi passaggi burocratici, perché sono molto, molto interessanti da leggere, sono molto interessanti da leggere le sentenze, tutte queste cose. Ma poi il fine ultimo è quello della praticità e dell'avvicinamento del sistema statale ai cittadini. Ho capito, ma cioè ci sta dicendo la politica vale più di una sentenza della magistratura? Ma a questo punto credo di sì, perché io come la devo leggere questa cosa? È una sentenza. Una sentenza, ma io ho dei grandissimi dubbi, penso che sia più una sentenza di comodo, una sentenza politica fatta dal Tribunale di Roma. Voglio leggere la sentenza, voglio leggere il dispositivo, il perché, il per come, qual è il comportamento antisindacale. Senta, ma questi ministeri o sedi decentrate, ma diciamo la verità, ma sono arrivati anche i giornalisti, non c'è nessuno, cioè a che servono? Sono un'icona che la Lega ha voluto per... Ma guarda, io ci sono stato un paio di volte in qualità di Presidente del Consiglio, non come leghista. ho parlato con almeno due ministri, di cui uno anche non della Lega Nord, per cui c'erano un paio di funzionari che raccoglievano le stanze o rispetto alle cose che ho chiesto. Cioè chi c'era? La Brambilla o Tremonti? Perché sono io ho incontrato Tremonti dentro e naturalmente ho incontrato il ministro Calderoli. Cioè Tremonti l'ha ricevuta, ma come Ministero dell'Economia nella sede di Monza? Guardi, ho avuto l'occasione di andare a Monza e chiedere di incontrare Tremonti, ho incontrato Tremonti a Monza. Insomma, come sede istituzionale, no? Perché qualcuno adesso dirà subito: ma come Tremonti incontra in un istituzionalmente da ministro in una sede decentrata? Nasce l'eterno dubbio: quando smette Tremonti di fare il ministro e quando è il Tremonti normale, Boni smette di fare il Presidente del Consiglio ed è un cittadino normale. Cioè un incontro tra due politici, ecco, non tra il ministro e il Presidente della Regione. Poche cose da chiedere a Tremonti. Se devo parlare dei problemi, delle finanziarie e tutto il resto, credo che se ho l'occasione di incontrarlo a Monza, preferisco andare a Monza e non prendere un aereo e dover andare a Roma. Senta, poi a proposito di aereo, perché poi c'è questa vicenda dell'auto blu sulla quale... Lei ha l'auto blu come Presidente del Consiglio regionale? No, io no. Cioè, mi spetterebbe, ma ho optato per il fatto di già con la mia avere il rimborso. Esatto, la questione è questa, cioè alla Regione Lombardia ci sono persone a cui spetterebbe l'auto blu, ma se rinunciano a questa auto blu hanno in cambio un rimborso che è identificato in lordi, credo, 50.000 euro, scriveva ieri Sergio Rizzo sul Corriere. Sì. Perché questa cosa? Perché il compito, la macchina di rappresentanza o la macchina di servizio per alcune cariche, io ricordo sempre che la presidenza del Consiglio regionale è tanto quanto la presidenza della giunta regionale, perché siamo i due apicali. Quindi come formigoni. Di media faccio il conto che io sono in servizio dalle 8 di mattina, come mi incontro oggi, e finisco tutti i miei, tra virgolette, lavori alle 8 di sera, se non più tardi. E per cui dovremmo avere a disposizione almeno due autisti. E questo qui è il punto. Quindi invece si risparmia, lei dice, non avendo l'auto blu si risparmia. Si risparmia perché gli autisti vengono dedicati ad altri servizi, non vanno sugli straordinari, non abbiamo spese di manutenzione per le macchine, non acquistiamo le macchine, abbiamo un risparmio medio di circa 1 milione di euro a legislatura. Beh, qualcuno potrebbe dire togliamo addirittura il diritto all'auto blu e così togliamo anche il rimborso. Ma guardi, io ieri, come ufficio di presidenza, siccome su 5 dell'ufficio di presidenza solo 2 non adoperano l'auto di servizio, io e un consigliere segretario abbiamo mandato una comunicazione alla commissione che si sta occupando dei tagli e delle razionalizzazioni, dicendo di intervenire, anche trattare anche questa cosa, perché è naturale che se succede per l'ufficio di presidenza deve succedere anche per la giunta. Sì. Cioè il meccanismo deve essere per tutti, perché il sistema delle auto blu o delle auto di servizio viene più usato dalla giunta che non dall'ufficio. Insomma, lei la giudica una polemica pretestuosa, demagogica, cioè, però ci sono questi 50.000 euro di rimborso che le spettano perché lei rinuncia all'auto di servizio. Attenzione, sono 50.000 euro lordi su cui paga le tasse. Vabbè, insomma, però 50.000 euro, c'è gente, molta gente che manco li guadagna. No, ma questo è vero, alla fine sono 30.000 euro. 30.000 euro. Che così abbiamo la chiarezza. 30.000 euro netti che rimangono, sì, per non usufruire dell'auto di servizio. 30.000 euro. Usiamo le nostre auto. Le nostre auto, vabbè, certo. Faccio il conto, aspetti che le do dei conti perché così chiariamo esattamente. Scusa, no, intanto faccia i conti. Intanto mi lasci salutare, intanto che fai i conti. Voglio salutare anche un ex magistrato in pensione, si chiama Livio Pepino, che saluto. Buongiorno Pepino. Buongiorno a lei. È stato anche membro del CSM torinese, perché qui vogliamo parlare di un altro argomento, che è la questione che ha visto il ministro dell'Interno Maroni in prima linea dopo gli scontri di Roma, in previsione di quello che potrebbe succedere, speriamo di no, in Val di Susa domenica. Allora, Livio Pepino è un magistrato che dovete sapere, posso definirla magistrato notav? ma mi definisca magistrato notaro, poi ne parliamo e le spiegherò. Perché lei sta con i notav? Lei è di Torino, ha anche, credo, acquistato, come tante persone, un po' di terreni sui luoghi dove dovrà sorgere la TAV, in modo da cercare anche di ostacolare, immagino, burocraticamente questa opera. Sì, perché io sono, appunto, come lei ha detto, di Torino, sono in qualche modo cittadino adottivo della Valsusa da circa 30 anni. Io credo che la TAV sia un'opera inutile e dannosa. Credo che sia un'opera inutile, dannosa e dispendiosa in maniera incredibile. Si parla di una spesa preventivata di 20 miliardi di euro che, come lei sa, nel nostro paese, di fronte a un preventivo di 20 miliardi, se si arrivasse a spendere 30 miliardi sarebbe grasso che cola, come si dice, in una situazione in cui ancora ieri il Presidente del Consiglio, di fronte alle sollecitazioni delle parti sociali, dice che i soldi non ci sono e bisogna inventarsi qualcosa. Però anche ieri l'Unione Europea ha detto, ha ribadito, la TAV va fatta, insomma, cioè la vogliono un po' tutti, l'Unione Europea, il governo, la regione. Allora, è vero. È vero che la vogliono un po' tutti a livello istituzionale, è anche vero, e questa è la ragione di una protesta diffusa nell'ambito della Valle, nell'ambito di una serie di intellettuali, di tecnici che seguono questa vicenda, che si continua a non parlare di problemi. Allora, quando oltre 20 anni fa si cominciò a pensare alla TAV, si pensò a una cosa del tutto diversa. Si pensava a un trasporto passeggeri, ora si parla di un trasporto esclusivamente di merci. Allora c'era un trasporto via ferroviaria nella tratta che va da Modan alla Valsusa, che era di circa 10 miliardi di tonnellate. Oggi quella quantità di merci trasportate è bruscamente caduta. Ora, quello che si chiede è: ma perché non si ricomincia a ragionare intorno a questa vicenda? Noi riteniamo che questa discussione non esista. Allora, su questo credo che tutte le manifestazioni e quant'altro tendano a riportare l'attenzione. Questo su quello che è il problema. Allora, mi interessa, dopo le informazioni sul traffico, perché uno dice che c'entra un ex magistrato valsusino d'adozione con un leghista, in realtà c'entra proprio perché la questione dell'ordine pubblico è stata posta da Maroni in maniera importante, decisiva, chi manifesta deve pagare, poi attenzione all'autunno caldo e attenzione a quello che succederà domenica. Allora, alle 8.48 le vorrei chiedere questo. Livio Pepino, ripeto, ex magistrato, è stato membro del CSM, ora di Torino, è valsusino d'adozione, contro la TAV. C'è questa manifestazione, le immagini di Roma le abbiamo viste tutti, le avrà viste anche lei. E queste interviste anche di un paio di giorni di uno degli esponenti notav, Perino, che ha detto tagliare le reti del cantiere è lecito, visto che quel cantiere è illegale. È una mossa, come insegna Gandhi, di una forma di protesta. Insomma, lei che è magistrato, che ne pensa dei rischi di violenze che ci sono state anche in passato, o quello che abbiamo visto a Roma? Come ci si pone di fronte a questa problematica? Allora, io credo che il problema di Roma e il problema della Valsusa siano due problemi totalmente diversi, per mille una ragione, per il numero delle persone, per le caratteristiche che hanno, e credo che affiancarli, come sta accadendo e come ha fatto il ministro Maroni nel suo intervento al Parlamento, crei solo confusione. Se lei mi chiede che cosa penso della violenza, io le dico, come magistrato e come cittadino, penso che l'uso della violenza sia uno sbaglio e sia un reato. E i reati, come tutti i reati, che li commetta il Presidente del Consiglio o che li commetta l'ultimo dei migranti, vanno perseguiti, punto. Quindi tagliare le reti del cantiere non è lecito, voglio dire. Come... Allora, tagliare le reti del cantiere non è lecito, ma credo che, se vogliamo fare un ragionamento anche di carattere politico per cercare di capire e in un qualche modo prevenire, non ha nessun senso confondere tagliare una rete con il terrorismo, come si sta facendo. Sono dei comportamenti profondamente diversi. Se sono dei comportamenti illeciti, nella misura in cui sono dei comportamenti illeciti, vanno perseguiti come tutti i comportamenti illeciti. Perseguirli però in un modo non adeguato, innestare su comportamenti di questo genere discorsi su rischi di terrorismo, arrivare a parlare addirittura della possibilità di subordinare la possibilità di partecipare a manifestazioni con un versamento in denaro. Sì. Che ci ricorda, insomma, ricordiamoci, facciamo 150 anni dell'Unità d'Italia, allora per votare bisognava pagare 40 euro, 40 lire di tasse. Cioè, ormai rischiamo di arrivare al fatto che per partecipare alle manifestazioni bisogna pagare come per andare a vedere una partita allo stadio. Sì. Allora, innescare spirali di questo tipo non risolve il problema, ovviamente, ma anche l'effetto opposto di creare ulteriormente tensioni e un clima di conflittualità che poi porta anche a momenti di esasperazione. E allora è su questo, Davide Boni, lei che è esponente della Lega, l'accusa è quella di fare una risposta troppo muscolare da parte del ministro dell'Interno, da parte della Lega Nord, anche questa cosa dei soldi per manifestare. Lei che è lombardo, cosa ne pensa? Come si pone di fronte a questa cosa Val di Susa e anche Roma? Ma guardi, io ricordo soltanto che nel 99 noi quando sfilammo a Roma facemmo allora un'assicurazione di 1 miliardo di lire. Perché ce l'avevate? Beh, ma cosa vuol dire? L'abbiamo fatto perché per garantire che se in caso di danno tutto il resto c'era qualcuno che era responsabile di questa cosa. Sì, però l'accusa è questa: chi non ce li ha questi soldi cos'è? Vede il suo allora diritto di manifestare precluso? Cioè un corteo di allora, studenti, come fate? La domanda che faccio a lei, Milan, e allora chi non ce li ha ha l'autorizzazione nel caso degli scappi di mano la situazione di demolire una città? No, questo no, questo no. Allora, cioè, questo è il punto. O chi organizza manifestazioni si accolla onori e oneri perché le cose non succedano, o evidentemente si assume un altro tipo di responsabilità. Io ho fatto decine e centinaia di manifestazioni, comprese quelle dei ministeri a Monza, e non ho mai demolito vetrine né bruciato macchine. Cioè, questo è il punto. Però il tipo di risposta è questo, non so, Peppino la convince, perché la risposta potrebbe essere: si prendano coloro che hanno fatto queste violenze e li si perseguisca, si persegua dal punto di vista penale. Addirittura intuitivo. Allora, siccome ci sono degli incidenti sulla strada, le case produttrici di auto devono fare un'assicurazione generale per pagare i danni di chi guida le auto. Si fa un corteo, qualcuno lo organizza, se all'interno del corteo ci sono 10 persone, così come se all'interno di uno stadio ci sono 10 persone o all'interno di qualunque tipo di manifestazione pubblica ci sono 10 persone che fanno dei danni, bisogna individuare quelle 10 persone e far pagare. Però Peppino, anche lei sa che questo non è vero, cioè non è sempre facile, poi ci sono i magistrati che lo so, perché si confondono all'interno delle manifestazioni, ne approfittano magari dei pacifici per fare dei casini, insomma, anche questo nella Val di Susa, anche questo che non sia facile è assolutamente fuori dubbio, dico di più, in alcuni casi è assolutamente impossibile, ma il fatto che questo sia impossibile non significa dover scaricare la responsabilità su chi non ne ha alcuna, perché se io organizzo un qualunque tipo di cosa, pensiamo alla manifestazione politica, pensiamo alla manifestazione sportiva, e in quella manifestazione qualcuno fa dei danni, che io che ho organizzato questa manifestazione, le centinaia, le migliaia di persone che hanno partecipato a questa manifestazione senza fare nulla di illecito, in virtù di che cosa devono pagare anche quelle? Questo è il tema in questione. Comunque staremo a vedere domenica. Boni, io devo, non so se ha fatto i conti, ma 30.000 euro, questi 30.000 euro di rimborsi, allora, che le do la tabella. Sì. Sono la tabella ACE 0,6 per chilometro. Vabbè, ho capito. Io faccio una media di 60.000 chilometri all'anno. E quindi vabbè, i calcoli sono quelli. Senta, ma perché questo si impegna a toglierlo questo rimborso? Ma cioè, io ci sto, cioè via l'auto blu, ma via anche il rimborso. Cioè, ma perché è naturale? Guardi, io questa partita la faccio, però la deve fare. La deve fare tutte insieme a noi, anche ho capito, ma quindi se non la fanno loro non la facciamo neanche noi. Sia tranquillo che io, quella regione Lombardia, tanto per essere chiaro, Milan, ha tagliato del 10% l'indennità di carica di tutti i consiglieri regionali su comunicazione. Fate un ulteriore sforzo, tagliate anche questa, dai, ce la potete fare. Boni, io però la devo salutare. Davide Boni, grazie, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, così come Livio Peppino, ex magistrato che è stato con noi, magistrato Notav, l'abbiamo soprannominato. Grazie a tutti in redazione, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Viola Bottoni e Carmelo Lauricella, oggi in regia. L'appuntamento è rinnovato a domattina alle 7.20.